giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sole, ombrelloni, turisti che si rilassano, scene dall'ultimo vero fine settimana estivo a Lignano Sabbia d'Oro. Poi riapriranno le scuole segnando la fine delle vacanze. Meno tedeschi quest'anno, ma non è stata una cattiva stagione, dicono gli albergatori, anche se segnata dal maltempo del mese di giugno. A Trieste la costa fa i conti in molti punti ancora con i danni delle mareggiate del passato autunno. E proprio bora e mareggiate lasciano sui fondali un mare di immondizia. Stamattina abbiamo seguito un gruppo di subacquei impegnati nella pulizia delle acque. In Friuli Venezia Giulia un dipendente del settore privato percepisce in media una retribuzione annua di 23.300 euro, più della media nazionale che è di 22.840, ma che resta bassa rispetto al costo della vita. Lo mostrano i dati della CGA di Mestre riferiti al 2022. Sono i palloncini arancioni il richiamo dello sbaracco in corso Udine e provincia. I commercianti promettono ribassi fino all'80% per questa fase di fine stagione e la formula che si aggiunge ai saldi sembra funzionare. 116 dipinti che raccontano soprattutto Trieste, il suo golfo, il suo mare, il porto e anche i suoi volti e le sue stanze più intime. È la collezione Luciani, donata al Museo Revoltella. Dipinti di autori attivi in città fra la fine dell'Ottocento e il Novecento, esposti in una mostra visitabile fino al 13 ottobre. Nel basket mancano 3 settimane all'avvio dei campionati. Nel frattempo le squadre di A1, regionali di A1 e A2 mettono a punto le squadre e perfezionano tattiche e condizioni fisiche con la partecipazione a diversi tornei. È quello che stanno facendo Udine, Cividale e Trieste. Friulane entrambe in campo ieri, sconfitta per l'APU e netta vittoria per la Gesteco. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettig e Antonio Cagliazza. Scampoli di vacanze e di estate. Lignano, la capitale regionale del turismo, è l'osservatorio principale per avere il polso di questa stagione. Sono calati austriaci e tedeschi, ma non è andata del tutto male. Gli addetti ai lavori confidano molto sulle prenotazioni last minute, ormai diventate una consuetudine. Sole che splende, ombrelloni aperti, turisti che si rilassano a bordo piscina oppure giocano a carte al tavolino del bar. A Lignano Sabbia d'Oro sembra il 7 di agosto, non il 7 di settembre. Ultimo colpo di coda dell'estate, prima dell'inizio dell'anno scolastico, che dà, come di consueto, il segnale di partenza a molti vacanzieri. Diverse speranze degli operatori turistici sono riposte nella Bike Week per gli appassionati delle due ruote in programma settimana prossima. Un modo per noi di allungare la stagione, ci dice Massimiliano Andretta, che gestisce hotel e campeggio a Sabbia d'Oro. Non è stata una cattiva annata, aggiunge, anche se segnata dal maltempo del mese di giugno e da qualche disdetta o partenza anticipata questa settimana. Tuttavia, aggiunge, non è detto che le strutture non tornino a riempirsi al primo accenno di sole. Prenotare sotto data è diventato un'usanza ormai sia per italiani che per austriaci e tedeschi. Ci sono stati appunto pochi tedeschi quest'anno, si rammarica una commerciante che vende costumi. Lo definisce un po' un anno bisestile. Le cifre ufficiali per luglio e agosto di Promoturismo sono attese a giorni, ma il sentore è che si viaggi qualche punto percentuale sotto ai numeri record della stagione 2023. Così ci conferma anche una ristoratrice a pochi passi da una terrazza a mare ancora tutta incerottata per via del cantiere di ristrutturazione. Parte del lungomare è interdetta al traffico per Easy Fish, il festival del pesce dell'Adriatico. Ieri sera ha fatto registrare 3.000 persone. Ci avviciniamo a una famiglia che sorseggia un drink al bar. Arrivano da Udine. Quest'anno, ci dicono, magari non abbiamo soggiornato troppo spesso, ma siamo venuti parecchie volte in giornata. Lignano Sabbia d'Oro, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dal mare di Lignano a quello di Trieste, dove diversi stabilimenti quest'anno hanno fatto i conti con i danni causati dalle mareggiate dell'autunno scorso. Ma la costa fa i conti anche con gli accumuli di immondizia. Se un tempo si trovavano persino lavatrici e lavandini nel fondo del mare di Trieste, oggi per fortuna succede sempre meno. I rifiuti sono soprattutto portati dal maltempo. Bora e mareggiate, insomma, inquinano più degli uomini. A dirlo, subacquei e apneisti impegnati oggi nella pulizia dei fondali della Sacchetta. Bombola, boccaglio e tuffo, immersi nel mare della Sacchetta di Trieste, apneisti, subacquei e sommozzatori di due società sportive della città per pulire i fondali dai rifiuti. A chiedere il loro intervento le società velistiche di Riva Ottaviano Augusto. Tenere pulito il nostro mare è tra le priorità della nostra attività sociale ed educativa, spiegano. Interessante notare come la qualità del rifiuto sia cambiata in meglio negli anni e lo dimostra l'imponente attività di pulizia fatta la scorsa settimana nella zona di Miramare, recuperati sdrai, lettini, tavoli, tutto materiale finito in mare a causa della mareggiata, spiega Mauro Pisani, presidente del Diving Sporting Club. Un tempo invece, di proposito, le persone gettavano di tutto, copertoni, lavatrici, lavandini. Anche i diportisti sono cambiati, racconta Alan Travaglio, presidente Triestina Sport del Mare. Un tempo succedeva che i proprietari delle barche che dovevano cambiare la batteria buttassero in mare la vecchia batteria. Oggi nessuno si azzarderebbe mai. L'educazione ambientale a scuola, in famiglia, forma generazioni più consapevoli, è il pensiero unanime di chi da anni si occupa di recupero dei rifiuti. Un paio d'anni fa la società Triestina Sport del Mare, racconta il suo presidente, vennero fatti riemergere 2 metri cubi di rifiuti in un'altra area della Sacchetta. C'erano bottiglie, cellulari, parabordi delle barche e dire che su quei fondali non tanto profondi ci sono addirittura intere vecchie imbarcazioni inabissate e sepolte da decine e decine di anni che hanno formato ormai uno strato che rende il fondale ancora meno profondo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Dunque vediamo com'è la situazione del tempo. Cielo sereno su pianura e costa, coperto in montagna. Ecco le temperature alle 11. A Trieste 25 gradi, il mare è calmo con una temperatura di 27 gradi. A Udine e a Pordenone 26, a Gorizia 27, Tolmezzo 21, Tarvisio e Forni di Sopra 19, Piancavallo 16 gradi, Sappada 14, Monte Zoncolan 12 gradi, Monte Lussari 13, a Lignano e a grado 25, la temperatura del mare nelle due località è di 27 gradi. Queste le previsioni. Oggi pomeriggio su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile, sulla zona montana variabile con la possibilità di qualche locale breve pioggia, venti a regime di brezza. Domani in giornata cielo variabile o nuvoloso con possibili rovesci sparsi e vento da sud-est moderato sulla costa. In serata e soprattutto nella notte successiva probabile peggioramento con piogge temporalesche da abbondanti e intense, localmente anche molto intense. Nella notte verso lunedì soffierà libeccio da sostenuto a forte con possibili mareggiate. In Friuli Venezia Giulia i salari sono in media più alti che nel resto d'Italia, ma sono anche qui inadeguati a seguire l'andamento del costo della vita in costante crescita. In regione le paghe più consistenti sono versate dai datori di lavoro della provincia di Trieste. In Friuli Venezia Giulia un dipendente del settore privato prende in media una retribuzione annua di 23.319 euro. Una busta paga superiore alla media nazionale, che è di 22.839 euro, ma che resta pur sempre bassa, soprattutto con il costo della vita che cresce. La regione è la sesta in Italia, lo mostrano i dati della CGA di Mestre riferiti al 2022, che mettono su carta la spaccatura di un'Italia dove al sud si guadagna molto meno che al nord. I numeri confermano le difficoltà quotidiane dei lavoratori poveri. La causa va cercata nei minimi tabellari troppo bassi, ma pesa anche la diffusione di lavori discontinui e part-time, che fa sì che sia contenuto il numero di giornate lavorate durante l'anno. In Calabria, per esempio, l'ultima in Italia, sono 217. In Friuli Venezia Giulia va meglio. Si lavora in media 253 giorni all'anno, quarto posto in Italia. Un altro elemento da considerare è la produttività del lavoro, perché a questa è collegata la retribuzione. In regione la produttività si attesta a 40,3 euro per ora lavorata. 6 regioni presentano un valore superiore. La prima è la Lombardia, dove i livelli retributivi sono alti grazie alla presenza di multinazionali e grandi imprese. In Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto la presenza di settori ad alta produttività come la meccanica e il biomedicale hanno garantito buste paga in media un po' più pesanti di quelle percepite in Friuli Venezia Giulia, che conta soprattutto su piccole e medie imprese. Nel dettaglio della regione sono gli imprenditori triestini quelli che pagano di più. Nel capoluogo di regione la retribuzione media annua è di 25.165 euro. Seguono Pordenone con quasi 24.000, Udine con 22.600 e Gorizia con 21.370 euro. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Un incendio è scoppiato nelle prime ore di oggi in un condominio di Lignano Pineta. Le fiamme si sono sviluppate sul tetto di un palazzo in Corso degli Alisei, coinvolgendo parzialmente anche il soffitto di un appartamento situato al quarto piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti intorno alle 5 del mattino i vigili del fuoco del comando di Udine assieme alle squadre dei distaccamenti di Lignano e La Tisana. Dopo aver verificato che all'interno dell'appartamento non c'erano persone intrappolate, hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che dalle travature in legno del tetto avevano iniziato a intaccare il soffitto dell'alloggio. I soccorritori sono riusciti a estinguere l'incendio prima che le fiamme si propagassero all'intero tetto e ad altri alloggi. È il fine settimana dello sbaracco in provincia di Udine, un'iniziativa che ricalca la modalità dei saldi, un'ottantina i negozi che vi aderiscono, in città soprattutto, ma anche nel resto del territorio, da Tarvisio a Lignano. Sono i palloncini arancioni che da quest'anno a Udine contraddistinguono lo sbaracco, i ribassi commerciali fino all'80% di fine stagione. Una formula che funziona anche in un periodo come quest'estate che per i negozi, soprattutto di abbigliamento, non è stata certo eccezionale, spiega Alessandro Tollon, presidente regionale e provinciale di Federmoda. Un'ottantina gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa tra capoluogo e territorio della ex provincia di Udine, da Lignano a San Daniele e da Codroipo a Tarvisio e Sappada. Nel 2023 erano stati oltre 130, ma, continua Tollon, quest'anno i negozianti, per esempio di Tolmezzo, hanno deciso per un'altra data, mentre per i commercianti di Citafiera si è optato per altre iniziative più adatte. Pieni i negozi del centro di Udine in questa mattinata di affari, esercenti mediamente molto soddisfatti e ottimisti sulle vendite della giornata, perché la formula dello sbaracco con gli stand posizionati fuori dai negozi che attraggono l'attenzione dei passanti e il clima festoso con palloncini e decorazioni colorate nei negozi aderenti favorisce la predisposizione all'acquisto. Udine, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Un gesto di forte senso civico, quello di un ragazzo goriziano che ha permesso ai carabinieri della compagnia di Gorizia di riconsegnare a un anziano il denaro prelevato e dimenticato all'interno di uno sportello bancomat del centro cittadino. È accaduto qualche sera fa presso uno sportello di Corso Italia, dove l'anziano si era recato per effettuare un piccolo prelievo. Dopo aver selezionato l'importo, il denaro è stato erogato, ma l'uomo, ritirata la carta, ha dimenticato i soldi nella fessura dello sportello. Poco dopo, allo sportello è arrivato un giovane che, notando le banconote incustodite, ha provato a cercare il proprietario e poi ha consegnato tutto ai carabinieri. I militari, risaliti all'uomo, un quasi novantenne, gli hanno restituito i soldi prelevati. L'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, ha incontrato i vertici dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, guidati dal presidente Roberto Flora. Durante l'incontro Lamba ha manifestato grande interesse per le iniziative dell'associazione, tra cui la donazione a chiamata e le auto emotive. Strumenti fondamentali per garantire l'autosufficienza del sistema sanitario regionale. Il preesule, laureato in medicina, ha colto con attenzione i dettagli, concludendo l'incontro con una preghiera e la benedizione. Domenica 15 settembre officerà la Santa Messa al congresso provinciale della FDS a Sutrio. L'8 febbraio 2025 si terrà l'inaugurazione di Go 2025, la prima capitale europea della cultura transfrontaliera, che unirà Gorizia e Nova Gorizia con una festa speciale. La giornata, intitolata Da stazione a stazione, vedrà eventi e spettacoli dal mattino a tarda notte, collegando simbolicamente le due città. La data scelta celebra due importanti figure culturali, France Prescheren e Giuseppe Ungaretti. A poco più di 5 mesi dall'inaugurazione ufficiale di Go 2025 trapelano le prime informazioni su quanto accadrà. Il sindaco di Gorizia, Ziberna, ha sottolineato il coinvolgimento della comunità e delle istituzioni locali, italiane e slovene, per un evento storico all'insegna della pace e del dialogo. L'inaugurazione vedrà la partecipazione di ospiti nazionali e internazionali, oltre a politici provenienti da Slovenia, Italia e dal resto d'Europa. Concerti, spettacoli e momenti d'animazione animeranno il percorso, che partirà dalla stazione di Gorizia per concludersi alla stazione della Transalpina, attraversando Nova Gorizia. Secondo giorno in Piazza dell'Unità a Trieste di Link Media Festival, il festival con le grandi voci del giornalismo che terminerà domani. Tra gli appuntamenti odierni, nel pomeriggio alle 17.30, Adriano Panatta dialogherà con il giornalista Fabrizio Brancoli alle 18.30, poi le connessioni tra economia e scienza con Cristiano Borean, Chief Financial Officer del Gruppo Generali, e Roberto Trotta, docente di fisica teorica alla Sissa di Trieste, mentre alle 19.30 l'attore e comico Lillo Petrolo riceverà il premio UNICEF. In occasione del 70° anniversario del ritorno di Trieste all'Italia, nell'ultima giornata del Festival del Cinema di Venezia, è stato presentato in anteprima poco fa alle 12, nello spazio della Regione del Veneto, Veneto Film Commission, il documentario Vola Colomba, che andrà poi in onda su Rai 3. Vi proponiamo alcuni brevi passaggi con le voci del giornalista Toni Capuozzo e dell'editorialista e storico Paolo Mieli sulla divisione di Trieste e dell'Istria nella zona A e B, amministrate militarmente dagli alleati e dagli jugoslavi, e poi sulla vicenda degli esuli. Seguirà anche la testimonianza di Bruno Pizzul. Con la partenza dei Titini, Trieste e l'Istria vengono divise in due zone, la zona A e la zona B, lungo la cosiddetta linea Morgan, dal nome del generale che aveva disegnato il confine provvisorio. La zona A comprende il litorale giuliano e si spinge poco più in là della periferia di Trieste, a Muggia, ed è amministrata dagli alleati. La zona B, che comprende tutta l'Istria e il Quarnaro, è invece in mano agli jugoslavi. Da questa parte il mondo delle democrazie occidentali, dall'altra parte il socialismo reale, in mezzo case, luoghi di lavoro, appartenenze ideologiche ed etniche, culture, tradizione, destini familiari e personali. E chi ne fece spese? Gli esodati. Partirono 2 anni d'inferno e alla fine di questi 2 anni, fra 45 e 47 sto parlando, vennero cacciati via, arrivarono in Italia e furono trattati come se fossero fascisti. Trieste, quando era diventato territorio libero, era un'oasi nella quale, insomma, succedevano delle situazioni e delle cose che dalle altre parti non esistevano. In particolare c'era il piacere della vita tipica degli americani, che avevano portato abbondanza, ma avevano portato anche la capacità di dialogare, di aprirsi con la popolazione. E sempre a Venezia, nell'ambito dello Short Film Festival dedicato ai cortometraggi a tema sport e natura, stasera sarà presentato il documentario Between Waves, in cui la velista triestina Francesca Klapcic racconta il suo percorso dai debutti fino all'affermazione nell'impegnativo mondo della vela d'élite. Attraverso 16 artisti e 116 opere, al Museo Revoltella di Trieste è possibile seguire un percorso nella storia dell'arte locale tra il 1890 e il 1972, tra le pennellate di Ugo Flumiani, Guido Grimani, Giovanni Zangrando, Piero Marussig, Vito Timmel. Sono le opere donate al museo dai coniugi Anna Maria e Luciano Luciani. La mostra sarà visitabile fino al 13 ottobre. Una collezione di 116 dipinti che raccontano soprattutto la città di Trieste, il suo golfo, il suo mare, il suo porto, ma anche i suoi volti e le sue stanze più intime, messi su tela da autori nati a Trieste o attivi a Trieste tra la fine dell'Ottocento e il Novecento. L'hanno donata al Museo Revoltella i coniugi Anna Maria e Luciano Luciani, che lo scorso maggio hanno acquistato le opere per donarle alla città. Il loro valore è di 500.000 euro. Nella sala si susseguono dunque i paesaggi marini di Ugo Flumiani, Guido Grimani, Giovanni Zangrando, per citarne alcuni, e gli scorci cittadini di Guido Marussig e di Vito Timmel, di cui si trovano 9 opere nella mostra. Una quarantina sono i ritratti, tra cui l'intensa Nora Grandi in poltrona di Giannino Markig e una decina le nature morte. Spicca anche il dipinto di Timmel, L'incomunicabile, del 1932, notevole per il particolare uso del colore. L'esposizione sarà aperta fino al 13 ottobre, poi partiranno alcuni lavori di riqualificazione del museo, finanziati da fondi del PNRR, che interverranno sulla zona d'ingresso, sull'auditorium e miglioreranno gli spazi espositivi. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo l'anteprima di 2 sere fa in Piazza dell'Unità, entra nel vivo il festival Il Faro della Musica, organizzato dalla Società dei Concerti di Trieste, con nomi di richiamo internazionale del panorama concertistico. Alle 20.30 al Teatro Verdi si esibirà il pianista Alexander Melnikov, accompagnato dalla Filarmonica di Milano, diretta dal maestro Mario Secco. Ancora musica, ritorna questa sera in Regione uno dei cantautori italiani più amati dal pubblico, il professor Roberto Vecchioni. Unica tappa in Friuli Venezia Giulia del suo tour 2024, dal titolo Tra il silenzio e il tuono, lo stesso del suo ultimo libro pubblicato a febbraio, alle 21 in Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento. Proseguiamo col basket, una sconfitta e una vittoria ieri per le squadre regionali di A2 impegnate in due tornei che precedono l'avvio della stagione regolare. L'APU Udine ha perso per 93-84 contro Verona al Palacarnera nella semifinale del Memorial Paietta. Vittoria invece per 75-53 contro Vigevano per la Gesteco Cividale che a Lignano ha conquistato la finale della quarta edizione del Memorial Bortoluzzi in programma oggi. E stasera alle 20.45 scenderà in campo anche la Pallacanestro Trieste che a Jesolo per il Memorial Silvestrin affronterà Venezia in un test importante per i biancorossi contro un avversario di livello nella prossima stagione di Serie A1. Impressioni di settembre sotto canestro. L'APU perde al supplementare contro Verona, Cividale vince nettamente contro Vigevano, ma è la qualità delle avversarie a fare la differenza. Al Memorial Paietta del Carnera è stato un match tiratissimo che ha messo alla prova i volti nuovi, Ichi, Johnson, Stefanelli, Ambrosin, Bruttini, e nel quale il coach Vertemati ha testato diverse soluzioni di schieramento. Ovviamente in fase di preparazione dura reggere 45 minuti di gioco effettivo e la squadra di casa è arrivata al supplementare più affaticata dell'avversaria. Con due incontri in meno di 24 ore, questo extra sforzo non ci voleva, ha chiusato Vertemati. Udine ha raddrizzato l'incontro dopo che per tre quarti gli scaligeri di Ramagli, che tre stagioni fa avevano stoppato la promozione dei bianconeri, avevano guidato nel gioco e nel punteggio. Bravi Alibegovic e compagni a rientrare in partita nei 5 minuti finali. Sul vantaggio APU 76-73 è arrivata la tripla di Udom, che ha portato le due formazioni al supplementare. Dopo il canestro da tre punti di Alibegovic, la Tezenis ha ripreso in mano il match chiudendo sul 93-84. Si torna in campo alle 18.15 per la finale terzo e quarto posto contro Orzi Nuovi. Spostiamoci a Lignano dove è in corso il Memorial Bortoluzzi. L'impegno per l'altra regionale della A2, la Gesteco Cividale, è risultato molto più agevole a dispetto di un avvio disastroso e delle difficoltà mostrate per metà incontro. L'avversaria di turno, il Vigevano, è apparsa in affanno nella seconda parte del match, solo 21 punti segnati. Quando i gialloblu hanno preso il largo, 75-53 il punteggio finale. Anche i pilastrini ha provato varie formazioni e i meccanismi di gioco sembrano abbastanza collaudati. Stasera, 19.15, la finale contro Forlì. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. E domani mattina su questa frequenza, dopo l'edizione del mattino del giornale radio, andrà in onda la rubrica di agricoltura Vita nei campi. Ecco il contenuto della puntata. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani in apertura alla nascita in regione di una filiera della carne da selvaggina. A seguire con Walter Zucchiati una nuova rubrica su agricoltura e cibo nella storia. Per il bio, prima puntata sull'adattamento dell'agricoltura al cambiamento climatico e poi la storia del settore primario raccontata dalle piante che l'hanno caratterizzato e ancora le tecniche della fermentazione continua e quella a caldo nella rubrica del vino, nuovo corso per i contributi sui grandi alberi, boschi e foreste e in conclusione l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi, Udine Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà inaugurata oggi alle 18 al Castello di San Vito al Tagliamento una mostra di dipinti dell'artista Paolo Mattiussi. Alla presenza dell'autore, l'esposizione resta aperta fino al 29 settembre. E nell'ambito della mostra del fotografo Diego Cinello, Friuli, Valli Alpine, Monti, Acque e Genti, che si tiene al Palazzo Municipale di Casarsa, oggi è in programma un approfondimento con l'autore e con il professor Francesco Micelli sul tema dell'osservazione dei paesaggi montani. L'incontro alle 18 nella pieve di Santa Maria Assunta.